Cercale! Cercale! Ecco, poetere, buonasera. Sì, buonasera. Cosa ti è successo in questi giorni? Cosa ti è successo? A me niente, e a te? Ma ti sento strano, Ti senti strano? Ma in FM sì. No, in AM gioco. Sono in AM. Sino a ieri stavo parlando con Gianni. Ma tu che sei fuori, sei in FM tu. Io sono in FM io. Servo a vedere sino a ieri sera con Gianni. Così la giocciate, così è torre. Adesso ti sento bene, no, ero io, va. Era me perché c'erano cuffie, non ti sentivo distruggere. Evidentemente non toccava bene, sto. Sta dicendo cosa è successo? Questi due giorni, da lunedì che non ti sentivo, anzi no, da sabato. Ieri c'era, e tu non sei rientrato ieri. No, ieri ero occupato, non ho fatto il tempo. Avanti ieri che stavo parlando con Gianni. Ah, ecco, no, ma ieri mi sembra che non sono entrato, perché c'avevo gente, capito? Toglia, lo sai, quando non entro, se non accendo vuol dire che c'è gente, capito? Non ci sono, c'è gente. Capita così, Toglia, non è sempre che posso mollare tutto e venire qua, capito? Non fa nulla. Ciao. Prima dovere e poi piacere. Ma infatti io ieri sera infatti acceso, ho fatto anche due o tre chiamate e non c'eri, dici che allora ho aspetto, mi sembra che erano le 7:25, aspetto, mi stavo guardando la TV e succede tutto, cosa devo fare? Già ci capiamo quando non ci siamo, vuol dire che ci sono impegni importanti, dai. Va bene, già va bene così. Ok. Purtroppo. Ah, tutto tranquillo. Caldo, beh. Sto caldo, c'è. Cazzo, noi siamo sempre a condizione accesa con la ventra. Un po' la ventra è condizionato l'accesa. Non si può stare, qua non si può stare. Mi sono dicendo in sala, al tessere un po' a proporre questa parete. Ho toccato il vetro delle porte, gatto, bollente sotto, ho lasciato tutto chiuso. Infatti, tocca sarà tutto a mettere i condizionatori. C'è caldo, ma perché è costretto a accenderlo sto? Ma chiamalo di pranzo, quando di pranzo l'ho acceso fino a quasi mezz'ora e un quarto, capito? Dopo ho spento in cucina e sono venuto qua, ho acceso questo di qui, questa cameretta, ho fatto rinfrescare bene e dopo che sono entrato qua, ha coricato un po', ho spento il condizionatore e ho acceso la ventola. Però dopo un po' c'era caldo stesso, allora ho dovuto accendere di nuovo il condizionatore. Siamo così, ho il condizionatore o la ventola? Non si posso portare, manca l'aria. A me manca l'aria, non mi fa respirare, capito? Io compreso. Purtroppo. Ne abbiamo parecchio di questo caldo e ce lo dobbiamo tenere. Sì, che fa? Andiamo ad avanti. Domani è la stessa cosa. Domani è la stessa cosa. Caldo. È tempo suo, Il caldo lo deve fare, per cui bisogna soffrire e ce la fate. Ripeto, non siamo tanto bene, comunque qualche rinfresco un po' ce l'abbiamo, ma possiamo può essere un po' tranquillino, vai. Infatti è così. Purtroppo caldo c'è e ce lo teniamo. Allora, ma fai vedere, c'è caldo, troppo caldo ancora, come fai? Non si può uscire, non si può uscire fuori, perché perlomeno io ho paura di uscire perché so che non ce la faccio a resistere, per cui non esco per quel motivo, capito? No, io sto uscendo la mattina, mi dà, poi accompagno mia moglie, la mia figlia, e con il cane sono, esco, faccio il giro e rientro subito. Già lo credo, tali nove fa, io stamattina sono sceso giù in magazzino a prendere roba, non si può passare nemmeno il magazzino, cazzo. Su qua porto prima c'era fresco, oggi c'era caldo, c'era fuoco giù, capito? E mi sono scappato subito. Caroli, un bebè, c'è parecchio caldo e non si può stare. Cazzo. Adesso magari la sera la notte, cazzo, conviene a uscire magari al fresco, fuori, fare una passeggiatina, allora va bene. Però c'è caldo ugualmente la notte, sembra così, ma c'è caldo. Ma guarda, io sto dormendo tranquillo, senza nulla, entra col freschetto, mi entra la notte e sto benissimo. Cazzo, lui, no, è sempre detto così, ti faccio lucini, ti faccio lucini, so, con la magliettina, nemmeno a porti lungo non mi metto per colui, perché non mi piace, c'è una maglietta, a mezza manica sempre, e il pantaloncino delle pigiama, capito? Per cui c'è caldo, però abbiamo il condensatore, la ventola e tiriamo avanti, ecco. No, infatti è così. Purtroppo quando è caldo bisogna fare tutti i manieri, ecco cos'è. Quando è giovane il caldo riesce a resistere di più, ma a una certa età come fai? Una persona grande che ha una gatta con questo caldo è pericoloso uscire fuori, capito? E per cui preferisco rimanere dentro casa, che c'è più fresco, dai. Infatti è così. Io ho combattuto purtroppo nonostante mille volenti. Sì, quando è caldo è caldo, quando è fresco è fresco. Ma in te c'era biglietto. Per forza, io si può fare niente. La veloce che può fare niente, certo. Dappertutto, caldo maledettamente. E in certe regioni sta diluviando, grandine, a più non posso, e qua ci muore del caldo. Infatti. Un ventola, un climatizzatore, non va bene. Anzi, a me se ne faccia ad uno, a seconda te ne ha giubilato un altro preciso, quasi. Di cosa? Del condensatore? No, il ventilatore che c'ha la ventola che gira a destra e quest'altra cosa che gira a sinistra. Anche quello va bene. No, io ce l'ha detto, mi lo ha cambiato il potere, ce l'hanno loro, ce l'hanno. Ma ventilatore ieri mattina, siccome c'era gente lavorando qua, e allora me ne sono sceso giù in magazzino per non rompere scatole qua, no? E sono stato un'oretta più, magari due, dai. C'era un ventilatore giù, poi sono acceso, mi sono preso il bacchetto, mi sono seduto e ti dico, stava bene un paio d'ore, là. Cazzo, bellissimo, però oggi non si poteva stare giù, ieri sì, c'era un po' di arietta, ma oggi c'era fuoco in magazzino, giù nel portone. perché c'era il vento al contrario, era ha girato il vento, ha girato, ma e poi no, non ce n'era molto di vento stamattina, infatti era un calore, non ci voglia stare, ma cosa fa portarci qua, ci poteva stare oggi. E quindi il calore c'è, ha girato il vento all'incontrario, ha girato, è per quello che c'era calore. Ma è girato al contrario la vento, allora potevi girare la spina e si metteva a senso normale. No, questi ventilatori sono fatti con due vento che sono, che girano, una gira a destra e l'altra a sinistra. Se lo fai girare la ventola di dietro, lo fai girare a sinistra, se va a destra l'altra ventola. Oppure all'incontrario. Ecco com'è. Fai la ventola di dietro, gira a destra e gli dai la sinistra. Ma ti arriva lo stesso il fresco. E oggi ho visto uno di quei portatili, lo metto come voi e fanno fresco quelle mie. Non abbiamo pensato a prendere uno, ma tocca spostarlo da una parte all'altra, capito? Accendiamo il condensatore quando siamo in cucina. Quando siamo qua accendiamo il condensatore stesso, che io ne ho uno in ogni camera, anche in bagno ce l'ho io il condensatore, non come quelli delle camere, ma è più piccolo, però manda l'aria fresca e caldo quello del bagno, per dirti no. Però una ventola è meglio sempre averla, anche portatile, capito? La ventola quella lì ce l'ho per buttare fuori l'aria condizionata in cucina, per avere tutto il calore che ti arriva nell'ambito, a rimanere il calore nell'ambito. Allora ho messo la ventola per spingere aria fresca nell'ambito anche. Qua là ci sono un cagito tra le camere e là dietro c'è fuoco e se c'è la porta quasi chiusa e c'è la vento attaccata e ci sta bene. Cazzo, ma e sull'andito cazzo avevo caso con le camere, ecco, quando ad aprire la finestra cazzo mi ha aperto appena la tapparella, c'era il vetro malente, ho chiuso subito, boh, cazzo, troppo, cazzo, ma oggi è caldo veramente, per cose gravi, capite, la cosa, la parte di Cagliari, cazzo, a 40 gradi in un paese, in una città. Ah, 38 siamo arrivati, la macchina mi segnava 38 gradi, mi segnava fuori, cosa ha detto, 38 gradi, dentro la macchina con il condizionatore acceso c'avevo 35 gradi. Infatti siamo, il caldo lo deve fare, ma il caldo è troppo il caldo che sta facendo, ma non qua solo, no. È in tutta l'Italia e anche in altri posti, è un caldo soffocante proprio, capito? Cosa ci vuol fare? Niente. Cazzo, abbiamo gli attrezzi per cui ci dobbiamo rendere conto a usare questi attrezzi e ci rinfreschiamo un po', va? A voi che andate a arrivare la bolletta, oi. No, non devo morire per appagare la luce, no? Cazzo, ad arrivi a Maghello, si vinne. Quando ce l'è, quando non ce l'è più è da preoccuparsi, ma grazie a Dio noi non siamo a quel punto, va. Infatti, non so mai che sono buco, quando vado da pagare bisogna pagare e basta. Non so, non puoi morire dal caldo, come fai? arrivassimo a casa senza condizionatori, non lo puoi lasciare spento. Ma mica se è caldo, come si fa a resistere? Cazzo, oh, non è possibile, so. Cazzo, io lo accendo. Quando sto mangiando lo accendo, so. E anche quando sono fermo, se c'è caldo me lo accendo ugualmente. Che se ne frega quando arriva la molletta salata? Cazzo, la salute è più importante dei soldi, capito? Io ti credo. Io ti credo che... Poi rinfrescate pure la frutta ghiacciata, sia come niente, e cindri, e mironi, e uva, e pesci, e canto venne. Ma noi siamo la stessa cosa, sì, meloni, cindria, e altre frutta, pesche, e tutto, quando facciamo la festa prendiamo un po' di tutto, capito? Per cui queste borgine di sire frutta ne mangiamo un bè e non una cosa solo, no, dopo pranzo certe volte una festa di angurie, una festa di melone, qualche pesco magari capita anche due se c'è fame bisogna mangiare. Io ti credo. Ma che non mi dirà se ti un po' di voti le mie negozie le mie voto eva e limone le voto ma che non mi dirà se faccia le malattie a me pure piace le malattie però c'è una disicchezza io per il limone, capito? Non mi fa andare in bagno. A me la prende preoccupazione di questo. E io quando le qualcuno molte volte fa il cavamini raggetti, una volta mi faceva una pietra d'anguria e mi mangiavo l'anguria, ma poi non la giuca a mangiare a mezzodì. No, allora mangiamo dopo pranzo la festa di anguria la mangio anche il melone, cazzo, la rubia. Prima no, però l'anguria a certe volte si ferma poco, anche se ti piace troppo, tanto Eva, chi se ne va a dare in bagno, sto? Io ti credo, a dopo il mio marito, a dopo di mezz'ora. In bagno si deve entrare, dopo in mangiata avete l'anguria dei meloni, ma che pesce di sono di pomeriggio mi ci sei a zinco e mi mangio una cosa così dopo in mezz'ora andate in bagno ma è così E adesso la frutta bisogna mettere nel frigorifero, specialmente le pesche, cazzo, se non sono il frigo si guastano, noi le mettiamo in frigo, perché se no se lo guasta, se lo guasta parecchio, allora invece essendo al fresco si guasta, capito? La cosa, la frutta è così, se tu la lasci fuori con questo caldo si guasta, mentre il frigo rimane dura di più. Sì, no, è già così, sì, purtroppo. Ma va così, anche se no andiamo male. Meglio di settarsi così, e con l'eva e tutto, tanto. È meglio che ci rinfreschiamo. Sì, tutte le sere, ragazzi, sono scendendoci la mambetta, è tutto buccia di melone, buccia di sindria, ma bisogna tu vedere a te, non ti dico niente. E dillo a me. Oggi mi aiuterò a comprare i buchi. Grazie. Ogni anno ti dice 40 penny, quindi... Busta non ci mancano, cazzo, da lui. Oh, ci abbiamo quelle buste grandi, noi quelle buste piccole, anche i sacchi ci abbiamo, cazzo, per cui non mi so problema. Però dico, quando si fa la modetta, bisogna anche meglio, però è tutto fatto di melone, cindri e roba guasta, capito? È un macello, è poco meglio a to. di là a me. Ieri vi farò due o tre voci, vi farò a lampa. E tra plastica, e Cassoni, e Mondessa. Di Cinti, e Mironi. Certo. Lumi domi. Oh, sì, no, siamo Vendieva. Acqua, gran carriera, sto. Cazzo, stamma c'è a pulire il frigo, cazzo. Cazzo. È un me. Ah, che quello, bisogna buttare subito. Se lo fanno volume, è un macello. Sì, infatti, è così. Purtroppo. Un attimino, Gianmarì. Otto. Oia, oia. Andiamo, che andiamo. Gianmarì. Gian Maria, attenzione a Gian Maria.